spiaggia dove tutto è più fermo e cerchi e non trovi il treno per il ritorno, sei lì così. Mastichi una cicca di quel distributore, il cuore pompa mille ma sa di far male, sei lì e così. Sei rimasta troppo tempo chiusa in te, con ritardi e decisioni inutili. Se questo è quello che desideri per te, sono già stato sole e luna dentro te. Nessun tramonto ormai, se alba più non c'è, tra le tue dita stringi il vuoto attorno a te. E sai che eri e sei la botta forte che mi rialza dopo una caduta. Poi di colpo tu tremi, semplici respiri, poi tu sguardi lontani, sei lì e così. E tu sei già passata ma non riesci a finire, ed ogni volta ancora metti un po' di colore, sei lì e così. Hai voluto certi sguardi su di te, come ti sentissi sola lì con te. Se questo è quello che desideri per te, sono già stato sole e luna dentro te. Nessun tramonto ormai, se alba più non c'è, tra le tue dita stringi il vuoto attorno a te. E sai che eri e sei la botta forte che mi rialza dopo una caduta. Questo è quello che desideri per te, sono già stato sole e luna dentro te. Nessun tramonto ormai, se alba più non c'è, tra le tue dita stringi il vuoto attorno a te. Sai che è